Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, con voi come sempre Sebastiano Barisoni. Insomma, il tema di questa giornata economico-finanziaria è arcinoto, ne stiamo parlando, devo dire, se mi permettete un pizzico di orgoglio, noi per primi, già da domenica sera abbiamo dato l'anticipazione che si andava verso un'uscita di Alessandro Profumo dalla guida del gruppo Unicredito, che appunto potrebbe essere il gruppo più, a seconda della capitalizzazione vista, ma insomma è il gruppo bancario più importante in Italia. E il motivo libico, cioè il fatto che complessivamente la banca centrale libica e il fondo sovrano libico abbiano il 7,6% dell'azionariato di Unicredito, è stata la causa scatenante, il casus belli come si direbbe, ma non certo il motivo strutturale. C'è stato un grosso scontro in questi mesi, in queste settimane, tra il manager, ossia Profumo, e gli azionisti, il patto di sindacato, le fondazioni, la fondazione Verona, ma non solo, la Lega, quindi la politica che attraverso le fondazioni esprime dei consiglieri anche nella banca, e quindi il governatore Zaia, il sindaco di Verona Tosi. Questa mattina ascolteremo alcune dichiarazioni su questo. E poi su questo ci concentreremo, anche il rapporto con i tedeschi, perché ricorderete che appunto Unicredito si è espansa verso est, ma anche e soprattutto in Germania, oltre che in Austria con la Bank of Austria, si è espansa verso est e verso la Germania soprattutto con l'acquisizione nel 2005 di Hypo Vereinsbank. Ebbene, a questo punto sembra che proprio la parte tedesca, a partire dal presidente Dieter Rampl, abbiano avuto un ruolo molto pesante nel dire non possiamo accettare questo tipo di governance, questo manager troppo dipendente. Chiaro anche il rapporto con i libici e soprattutto il peso dei tedeschi, troppo giudicato, troppo morbido. Allora, poi certo, anche i conti hanno pesato molto. Unicredito era la banca italiana più internazionale, quindi è la banca italiana più internazionale, e quindi ha avuto anche più problemi con la crisi finanziaria, non tanto Unicredito ma le controllate, le partecipate Bank of Austria e Hypo Vereinsbank, quindi era quella in cui si parlava più inglese, per dirla con il ministro Tremonti, ed è quella dove anche qualche danno è stato fatto con investimenti troppo azzardati. Ma tutto questo insieme di vicende, cioè i libici come elemento scatenante, la Lega e le fondazioni come espressione del territorio, i tedeschi per la parte che hanno avuto e per la parte che ritenevano di dover esercitare di più, tutto questo ha portato poi al fatto che pur mancando ancora il comunicato ufficiale, l'accordo è stato raggiunto con Alessandro Profumo, pur mancando, chiedo in regia, non c'è ancora l'agenzia sul comunicato ufficiale, però alle 3, intorno alle 15, Alessandro Profumo ha raggiunto l'accordo. Ecco, questa è la sintesi della giornata. Volete sapere come sono andati i titoli? Scusatemi, ma oggi è una giornata in cui sta capitando un po' di tutto. Volete sapere come sono andati i titoli? Ed eccola qua. Invece ve la diamo subito, perché in questo istante le agenzie hanno battuto la notizia che Alessandro Profumo si è dimesso e ha presentato poco fa le dimissioni al presidente Dieter Rampl. Lo anticipa in questo momento come a livello ufficiale Radio Corriere Sole 24 Ore, l'agenzia di stampa Radio Corriere Sole 24 Ore, arrivano dopo queste dimissioni, dopo la definizione dello schema di accordo sulle condizioni di uscita dal gruppo. L'intesa finale tuttavia richiede ancora qualche messa a punto di non secondaria rilevanza. Consiglio di amministrazione straordinario confermato comunque per le 18. Allora, adesso andiamo con ordine. Il titolo come va in borsa? Perde l'1,2%, il Banco Popolare però perde di più. Perché tutta questa importanza su Alessandro Profumo? Beh, perché guidava la banca da moltissimi anni, e perché stiamo parlando della prima banca del paese, diventa amministratore delegato di Unicredito nel 1997, per cui stiamo parlando di 13 anni, e soprattutto perché è stato soprannominato in molti modi, Alessandro Grande dai suoi, da chi lo elogiava, Arrogance, giocando con le parole, da chi lo riteneva troppo invece arrogante, ma insomma è stato l'uomo che ha obiettivamente a colpi di acquisizioni creato il primo gruppo bancario italiano con uno stile di management molto molto stentoreo, molto di piglio molto forte, andando a comprare all'estero, credeva che insomma, l'Italia pesa per il 50% nel fatturato di Unicredito, riteneva che insomma, le banche italiane dovessero espandersi e fare conquiste, ecco perché il soprannome è Alessandro Magno, anche all'estero. 349-238-6666 per i vostri sms. Adesso andiamo con ordine, perché alcuni scrivono un banchiere troppo spericolato verso est, altri dicono avete capito, a Verona lo straniero non passa, e va bene anche questo. Non devo dire che la Lega ha molto parlato, ma insomma non è da lì che sono arrivati i problemi per Profumo, da quello che noi abbiamo capito in questi giorni con le nostre fonti. La Lega può anche sbraitare, il problema è che quando gli azionisti non ti appoggiano più, a partire dal presidente e da consiglieri forti, da presidente delle fondazioni bancarie, lì non ce n'è più per nessun manager. Dicevo, 349-238-6666, le altre notizie in breve. Allora, come va il resto della borsa? Più 0,4% in questo momento Piazza Affari, più 0,2% Francoforte, più 0,3% Parigi, invariata Londra, invariata anche l'America. L'euro è forte, a quota 1,3125. Ancora tra i titoli Azimut meno 0,90, Saipem meno 0,70, Parmalat meno 0,60, invece chi va bene oggi? Buzzi Unicem, tutto il settore costruzioni, Buzzi Unicem più 4,3, Italcementi più 3,3, Ansaldo più 2,1 come Prismian, l'1,80% lo guadagna Bulgari e anche Mediobanca, Intesa San Paolo più 1,6%, 1,5% lo guadagna Mediaset e anche A2A. Vedo molti messaggi al 349-238-6666, volete sapere di più sulla vicenda di Profumo, qual è la quota dei libici, abbiamo una scheda su questo, abbiamo anche delle dichiarazioni di questa mattina con Oscar Giannino di Flavio Tosi da un lato, di Matteo Colanino dall'altro, insomma parecchio materiale. Prima di tutto però vorrei collegarmi con Raffaella Calandra, che è davanti alla sede centrale di Unicredito a Milano, quella sede nazionale in piazza Cordusio. Allora Raffaella, avete visto entrare Profumo oppure probabilmente le agenzie si riferiscono a circa 2 ore fa e solo adesso hanno avuto la conferma? Raffaella? No, Profumo è uscito circa un paio d'ore fa da Piazza Cordusio, e si può dire che è stato quello il momento in cui, quando la sua Audi grigia ha lasciato il garage di Unicredit, è stato il segnale che l'era Profumo in Unicredit si era appena conclusa. Ecco, su questo molti colleghi e cronisti fuori dalla sede di Unicredito, il consiglio di amministrazione mi sembra confermato per le 18 comunque. Il consiglio d'amministrazione è confermato, quindi tra circa 3/4 d'ora, certo che in base alle notizie che si sono già definite fino ad ora, quello che doveva essere un consiglio del red d'azione, ma tra amministratore delegato ed azionisti, sarà in realtà, sembra, una ratifica di dimissioni già avvenute. Sì, perché lì Profumo è assistito dallo studio erede Pappalardo per quello che riguarda la parte anche dei soldi. Già volete sapere quale sarà la buona uscita? Allora, sono circolate numerose cifre, quella più data, ma la usiamo col massimo prudenza possibile e con il beneficio del dubbio, quella che sembra più vicina all'accordo è una liquidazione di circa 38 milioni di euro, che non deve, capisco che è una cifra immensa, ma ricordo che quando Matteo Arpe lasciò Capitalia ebbe una liquidazione di 30 milioni di euro, quindi date le proporzioni non deve nemmeno sorprendere. Questi sono gli stipendi comunque dei top manager bancari. Ti risulta che Profumo sia da qualche altra parte, Raffaella? Profumo, quando ha lasciato appunto la sede di Unicredit, pare sia andato proprio appunto, ne è andato nello studio Erede Pappalardo, che ha sede qui poco distante da Piazza Cordusio, e probabilmente proprio per definire quegli aspetti dell'accordo sulla sua uscita da Unicredit, che diciamo aspettano ancora una limatura finale, possiamo definirla così, dopo una mattinata di consultazioni trattative che poi ha portato alla definizione di un accordo, come era stato anticipato da Radio Cor poco prima delle 14, e quindi che ha portato progressivamente alla decisione di Profumo di scrivere una lettera per i consiglieri del CDA per evitare appunto la conta nel consiglio d'amministrazione, e quindi anche lo scontro tra lui e gli altri consiglieri, a cominciare soprattutto da quella parte del consiglio che ha il suo riferimento nel presidente Dieter Rampol, che è stato più fortemente ostile alla linea di Profumo sul caso dei libici. E a proposito di libici, Sebastiano, prego. Scusami, una informazione importante: ha fatto il suo debutto qui in Piazza Cordusio anche il governatore della Banca Centrale Libica, Farhat Bengzara, che è anche vicepresidente Unicredit, che è appunto la prima volta che ha messo piede qui in Unicredit. E ancora, a proposito dei libici, il finanziere tunisino Tarak Ben Ammar, che viene considerato tra i più importanti trade union appunto con Tripoli, uscendo dal patto di sindacato a Piazzetta Cuccia, quindi Mediobanca, ha detto che i libici non sono preoccupati di quanto sta avvenendo qui in Unicredit. Certo. Allora, no, è importante che Tarak Ben Ammar, oltre che essere il trade union tra la finanza libica e medio orientale e quella milanese, è anche molto vicino, ha un ruolo importante in Mediobanca, ma è anche molto vicino al presidente del Consiglio Berlusconi, cioè, insomma, è un finanziere dalle diverse sfaccettature. Quello che tu ricordavi, che il governatore della Banca Centrale Libica, insomma, come se Mario Draghi fosse a Berlino o a Tripoli per una partecipazione alla banca, è l'elemento, ripeto, scatenante. Vedo molti messaggi su questo, ma attenzione a non essere un po' naif: non è solo o soprattutto per la presenza libica che Profumo se n'è andato. C'era dell'attrito e della ruggine precedente, questo è stato il casus belli. Sicuramente volete sapere le quote dei libici a questo punto: il 5% c'era la Banca Centrale Libica di Unicredit, e poi il Fondo Sovrano della Libia, cioè il Fondo dello Stato libico, ha un altro 2,6%. Ci siamo al 7,6%, praticamente assieme, se prendiamo la quota libica, sono il primo socio di Unicredit, però essendo separate si evita che abbiano più del 5%, e quindi che scatti la soglia del 5% di diritto di voto dentro la banca. Il primo socio italiano è la Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza Belluno, che ha il 4,6%, Mediobanca il 5,7%, ma senza diritto di voto. Poi c'è BlackRock che ha il 4%, la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino il 3,7%, Carimonte il 3,1%, Gruppo Allianz il 2,2%. Quanto capitalizza 38 miliardi di euro Unicredit. Grazie però Raffaella Calandra, riprendiamo con le notizie in breve. Allora, altre notizie, una giornata un po' convulsa, sempre temi leggeri in apertura. Parliamo dello IOR. Lo IOR, allora, piano con le associazioni di idee, perché tutti pensano a IOR, pensano a Marcinkus, pensano alle vicende del Banco Ambrosiano. No, qui è un'altra cosa, però la notizia anche in questo caso è una bomba. Il nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza infatti ha sequestrato in via preventiva 23 milioni di euro dello IOR depositati su un conto del Credito Artigiano SPA. Due alti responsabili della Banca Vaticana, tra cui il presidente Ettore Gotti tedeschi, sono indagati dalla Procura di Roma per omissioni legate alla violazione delle norme antiriciclaggio. E su questo cerchiamo anche di capire, e cercheremo di capire più avanti, di che cosa si tratti con un esperto legale, per la notizia, insomma, una notizia pesantissima, nel giorno, tra l'altro, in cui a Roma si è molto discusso di usura e del giro d'affari dell'usura, 20 miliardi di euro, 600.000 vittime. Oggi era il No Usura Day di Confesercenti SOS Impresa. Dicevo, 6 miliardi di euro l'introito per la mafia e per le mafie dell'usura, circa 70.000 persone invischiate in patti usurai. E cresce soprattutto, secondo il presidente della Confesercenti Marco Venturi, al microfono della collega dell'agenzia di stampa Radio Corriere sulle 24 ore, Teresa Trillò, cresce soprattutto l'usura verso i piccoli imprenditori, i piccoli commercianti, i piccoli artigiani. L'usura è un fenomeno sempre più aggressivo, soprattutto nei momenti di crisi economica come questa, e ci troviamo con 20 miliardi di giro d'affari illegale attraverso l'usura, 15.000 imprese commerciali che chiudono ogni anno la loro attività, quindi con perdite di posti di lavoro e di ricchezza per lo stesso paese. La crisi rende più omogeneo questo fenomeno, perché è una crisi che colpisce tutto il paese. Storicamente si sa che una città come Roma, per esempio, dove il fenomeno, non dico che è nato, ma quantomeno è cresciuto in maniera significativa, è una delle città più colpite. Ancora gli esuberi. Allora, stiamo per quello che riguarda Fincantieri, i sindacati incontreranno l'azienda lunedì prossimo per avere chiarimenti sul piano industriale 2010-2014, 2.000-2.500 persone che rischiano il posto di lavoro, e domani sciopero e corteo a Palermo. Per quello che riguarda l'Italia, l'azienda invece ha definito illazioni quelle circolate nei giorni scorsi su 1.400-1.600 esuberi. E il ministro Matteoli così ha commentato quanto agli esuberi all'Italia. Recentemente ho avuto modo di parlare con l'amministratore Sabelli, non mi ha parlato di questi esuberi, lo leggo sui giornali, non voglio dire che i giornali si sono inventati questa notizia, comunque prima di dare un giudizio vorrei capire di cosa si tratta. Vedo molti messaggi su Profumo. Allora, alcuni che criticano, dicono insomma con operazioni troppo azzardate, ha sì ingrandito la banca, ma poi l'ha portata a imbarcare prodotti tossici, soprattutto la controllata Bank of Austria e alcune controllate tedesche. Altri che dicono è l'unico che invece ha avuto il coraggio di aumentare le dimensioni della banca, ed è vero. Di sprovincializzare la dimensione molto provinciale delle banche italiane, portandola all'estero, comprando grossi colossi in giro per l'Europa, e anche questo è vero. Insomma, come sempre nella vita, solo gli sciocchi o i manichei hanno versioni o tutte bianche o tutte nere. Insomma, esistono diverse sfaccettature. È stato sicuramente un grande manager bancario, ha creato il primo gruppo bancario in Italia. Detto ciò, che il modello di banca universale, proprio con la crisi finanziaria economica che è scoppiata 2 anni fa, vacillasse, quindi il modello di Unicredito vacillasse, l'abbiamo raccontato molte volte. La critica infatti che la banca universale è troppo grande, con i centri, con i quartieri generali distanti dal territorio, poi avesse perso il contatto col territorio, con le piccole imprese del territorio, i direttori di filiale che cambiavano troppo velocemente e non riuscivano a capire dove erano finiti. Insomma, tutto questo è stato l'effetto negativo di una visione sicuramente imperiale da un punto di vista bancario, ed è che gli è appunto valsa il soprannome di Alessandro il Grande. Dopodiché capisco anche chi scrive: ma sembra un De Profundis, un De Profumis, giocando con le parole. Non è successo niente, si è solo dimesso, però insomma cambieranno gli scenari, anche perché le partecipazioni di Unicredito in Mediobanca, generali, questo avremo materia per discutere per le prossime settimane, in un momento in cui la politica è debole, debolissima, i poteri forti delle banche si ritrovano a dover decidere una cosa del genere. Beh, insomma, è una bella partita di potere. E allora, per sgombrare il campo dai dubbi, io farei così, andrei in pubblicità, meteo, poi diamo la chiusura di borsa. Unicredito adesso è il peggior titolo, -1,86%, a 1,90€ per azione. Poi approfondimento sullo IOR e su quello che è successo a Gotti Tedeschi, presidente dello IOR. Di nuovo la vicenda Unicredito, anche con gli ultimi sviluppi, visto che poi alle 18 inizia il consiglio di amministrazione. 349-238-6666 per i vostri sms. -17:34, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, adesso arriviamo alla borsa, poi parliamo dello IOR, non abbiamo dimenticato il tema, si tranquillizzano alcuni ascoltatori, e poi torniamo sulle dimissioni di Profumo, sulla storia di Unicredito guidata da Alessandro Profumo e sulla possibile successione, ma anche e soprattutto su, ripeto, chi è stato l'artefice di questa di queste dimissioni. Molti si concentrano sui libici. Per carità, avete ragione che da un lato il leader libico Gheddafi viene ricevuto, secondo alcuni anche in maniera eccessivamente prona, tappeti rossi e tende berbere a Roma, e poi però il partito di governo che si chiama Lega non vuole i libici dentro la banca Unicredito, perché dentro ci sono anche le fondazioni Cassa Macra di Treviso, Cari Verona di Verona. Un atteggiamento un po' strabico, va bene Gheddafi a Roma ma non Gheddafi dentro la banca. Però tant'è, ripeto, non concentriamoci solo sui libici, è stato l'ultimo caso di una vicenda che dura da più tempo. Prima di tutto, e prima anche dell'accusa allo IOR di riciclaggio, la borsa. Giornatina leggera leggera, dicevo, appunto invariata comunque alla fine Piazza Affari. Facciamo un ragionamento con Eleonora Micheli, Radio Corriere sulle 24 ore. Buonasera Eleonora. Buonasera a tutti. Unicredito -2,1%, peggior titolo e peggiorato nel finale. Perché? Qual è il qual è il ragionamento che fa la borsa? Perché? La borsa non ha ben accolto, come ha dimostrato sin da questa mattina, il fatto che Alessandro Profumo, anche se per adesso non è ufficiale, si dimetta. Il timore infatti è che Alessandro Profumo comunque conoscesse, ovviamente dopo tanti anni in banca, l'istituto, e che quindi sia difficile sostituirlo. D'altra parte va detto che numerosi operatori hanno detto che tutto sommato il titolo ha retto abbastanza bene alle notizie che si sono avvicendate nel corso della giornata. Gli analisti ritengono che nelle prossime giorni e settimane le azioni tenderanno a registrare una performance un po' più deludente rispetto a quella delle altre banche, ma tutto sommato i fondamentali della banca non dovrebbero essere intaccati da questo ribaltone al vertice. Sì, tra l'altro in questo obiettivamente c'è stato, molti di voi fanno notare, attenzione, Profumo è anche quello che ha obbligato alla ricapitalizzazione. È vero, il gruppo Unicredito, proprio per gli investimenti a alto rischio e tossici fatti da alcune sue controllate, è stato obbligato nell'ottobre del 2008 a un aumento di capitale, cioè a rifinanziarsi per 3 miliardi di euro, e a novembre 2009 un secondo aumento di capitale per 4 miliardi di euro. Ancora, il titolo è vero che era arrivato a 6 euro ed è sceso adesso a 1,90 euro. Comunque, questo per quello che riguarda Unicredito. Gli altri titoli, molto bene oggi il settore costruzione, se no facciamo tutta la puntata su Unicredito e non è corretto nemmeno questo. E i titoli costruzioni con l'ottimo andamento, soprattutto di Buzzi Unicem in più 4%, Italcementi cementi più 2,90%. Sì, si sono infatti riscattati i titoli del cemento, si scommette in un miglioramento del panorama per appunto tutto il comparto delle costruzioni, e quindi evidentemente c'è chi è tornato a scommettere proprio anche sui titoli del cemento, che tra l'altro hanno chiuso con i rialzi che hai menzionato, ma durante della seduta erano riusciti a guadagnare anche più punti. Altri titoli: Ansaldo STS più 2, Prismian più 1,80, Mediobanca più 1,6, Intesa San Paolo. Beh, ecco, interessante vedere cosa fa anche il primo concorrente, il concorrente per definizione di Unicredito. Intesa guadagna l'1,5%, Bulgari più 1,4, Mediaset più 1,3, A2A più 1,1 come CIR, Exor più 0,70%. Invece Banca Popolare meno 1,6, Azimut meno 1,1, Saipem meno 1%, Parmalat meno 1%, l'automatica meno 0,70%. Per quello che riguarda invece il settore tecnologia, in evidenza oggi STMicroelectronics. Esatto, il settore tecnologico è in evidenza, i titoli in verità hanno rallentato sul finale durante la seduta. Erano in evidenza molto più che sul finale. Del resto il comparto tecnologico è un po' in evidenza nelle ultime settimane, ci sono state numerose operazioni straordinarie, soprattutto negli Stati Uniti. Proprio ieri è stata annunciata l'ultima e quindi questo ha rivitalizzato tutto il settore. Ieri in particolare IBM ha annunciato di aver acquisito Nettezza Corporation, una società attiva nell'immagazzinamento dei dati. Ancora andiamo sui titoli più sottili per quello che riguarda oggi la borsa. Gruppo Ratti perde il 4,54, Nokia 4,51, L'Oreal il 4,24, molto bene Classe Editori più 18%, PMS più 13%, Sopaf più 12%. Novità su Sopaf? Oggi no, non sono emerse particolari novità. Mentre abbiamo visto tra i titoli degni di nota, le Tods da una parte e Piaggio dall'altra, no? Piaggio si è messa in evidenza, sul finale ha guadagnato oltre il 5%, c'è grande attesa per i conti del trimestre che verranno resi noti domani, soprattutto alla luce del fatto che nei giorni scorsi il presidente Roberto Colaninno aveva dichiarato di essere molto contento dell'andamento delle vendite di Piaggio. Giovedì inoltre la società presenterà il piano industriale. Per quanto riguarda Tods è stata positiva, ha rallentato, non ha festeggiato più di tanto, ma perché era già salita molto nelle ultime settimane, comunque è salita dello 0,94%, oggi l'Assemblea ha dato il via libera allo stacco di una cedola straordinaria, che è ovviamente una notizia che fa sempre piacere alla borsa. In particolare verrà distribuito un dividendo straordinario di 3,5 euro per azione. Ancora per quello che riguarda i titoli, dovete sapere quanto ha fatto Piaggio, giustamente più 5,70%, l'euro e le valute, forse oggi abbiamo scordato l'euro e le valute per via delle dimissioni arrivate praticamente all'inizio del programma ufficialmente di Alessandro Profumo, 1,31 il rapporto euro-dollaro. Avete ragione anche sull'oro e sul petrolio che non abbiamo dato, chiedo venia, recuperiamo subito. Per quello che riguarda il petrolio è a $74 e l'oro si mantiene sempre sui livelli da record storico, anche se oggi non ha riaggiornato alcun record storico. Grazie, Leonardo Michele, Radio Cori, Sole 24 Ore. Allora, noi restiamo in tema di finanza, oggi c'è molta finanza e pochissima economia, ma così vanno le giornate della cronaca che non decidiamo noi il perché. Insomma, sequestrati 23 milioni di euro, indagato il presidente dello IOR, che chi ha una certa età ricorda come banca, insomma, sempre coinvolta in problemi e problemucci. Lo IOR, l'Istituto per le Opere Religiose, è la banca del Vaticano, fondata nel 1942, fu coinvolta nello scandalo, nel crack Sindona, fu coinvolta nel crack del Banco Ambrosiano, il mitico, si fa per dire, Monsignor Marcinkus venne accusato anche di traffico d'armi, scappò, insomma, una banca che ha sempre creato molto molto imbarazzo al Vaticano, anche perché ha 130 dipendenti, un patrimonio stimato di circa 5 miliardi di euro e 44.000 conti correnti, perché è la banca che utilizzano tutti i preti, i vescovi al mondo, cioè tutte le gerarchie e la struttura del Vaticano nel mondo. Tra l'altro su questo, insomma, la IOR, preciso, non fa prestiti, non emette assegni propri, lo scopo è solo far fruttare i patrimoni perché siano impiegati in opere di bene. Una parte cospicua di queste rendite è devoluta al Papa, Tra i depositanti ci sono le diocesi, le parrocchie, gli ordini religiosi, gli enti privati con finalità religiose. Lo IOR dove investe, interessante anche questo, soprattutto in obbligazioni e opera sulle monete forti, dollaro, yen ed euro. Ma non stiamo parlando dell'asset allocation dello IOR, bensì dell'indagine aperta oggi dal Nucleo di Polizia Volontaria della Guardia di Finanza, che ha sequestrato in via preventiva 23 milioni di euro dello IOR depositati su un conto del Credito Artigiano SPA, e due altri responsabili della banca, tra cui il presidente Ettore Goldi tedeschi, sono indagati per omissioni legate alle violazioni delle norme antiriciclaggio. Chiedo maggiori informazioni a Domenico Lusi, collega dell'agenzia di stampa Radio Coro sulle 24 ore, che ha seguito oggi la vicenda. Buonasera Domenico. Buonasera. Sì, la vicenda, l'indagine nasce da una segnalazione dell'unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, che il 15 settembre aveva sospeso per una sospetta violazione della normativa antiriciclaggio due bonifici relativi a un conto intestato allo IOR presso il Credito Artigiano, due bonifici da 3 e da 20 milioni di euro. Nei confronti che dovevano essere effettuati nei confronti della Banca del Fucino e della JP Morgan di Francoforte. E niente, la misura era una misura cautelare che scadeva oggi, e alla scadenza della misura cautelare la procura ha ritenuto che ci fossero gli estremi per aprire l'indagine e effettuare il sequestro, perché ritengono che sia stata violata la normativa antiriciclaggio. In particolare, dove starebbe la violazione? Sarebbe in questo, che il Vaticano deve essere ancora incluso nella white list dei paradisi fiscali. Questo prevede che anche un adeguamento della normativa del Vaticano alla normativa antiriciclaggio internazionale, e dal momento appunto che il Vaticano non è ancora stato incluso in questa lista, la Banca d'Italia ha comunicato agli istituti di credito italiani che lo IOR, in quanto appunto Banca Vaticana, deve essere considerata una banca extracomunitaria, e in quanto tale le vanno applicati degli obblighi rafforzati di verifica per tutte le operazioni finanziarie che possono essere con istituti di credito italiani. Ecco, questo, allora adesso io vorrei dimmi, questo significa? Questo significa che nel caso in questione, nel caso che ha portato al sequestro di 23 milioni e all'indagine nei confronti del presidente Ettore Gotti tedeschi, non è stato rispettato questo obbligo di verifica rafforzato, cioè la banca non avrebbe comunicato, lo IOR non avrebbe comunicato alla Banca d'Italia chi erano i beneficiari dell'operazione e la natura e lo scopo dell'operazione. Cioè, per come la capisco io, essendo il Vaticano non aderente extracomunitario per definizione, e non essendo nella lista bianca dei paesi che possono avere un trattamento privilegiato sulle norme antiriciclaggio perché considerati affidabili, esatto, l'opposto della lista nera e della lista grigia, sono tre le liste a livello internazionale, se ho ben capito, praticamente si dice dovevate usare ulteriori passaggi proprio perché non siete nella lista bianca, proprio perché siete extracomunitari, che non sono stati rispettati, strumenti aggiuntivi. Se fosse così, si tratterebbe di una violazione tra il contabile e l'amministrativo, però esatto, un'omissione. Però insomma è punita penalmente, cioè il reato è abbastanza grave, perché si va da, sono due diverse violazioni, per una è prevista una pena da 6 mesi a un anno, per l'altra da 6 mesi a 3 anni, quindi insomma. Ecco, su questo vorrei sentire anche l'avvocato Fabrizio Vedana, che è responsabile dei servizi legali di Unione Fiduciaria SPA, che appunto è una società fiduciaria di servizi delle banche popolari, oltre che esperto del Sole 24 Ore proprio sulla legislazione antiriciclaggio. Avvocato, buonasera. Buonasera. Vi chiedo un minuto di pazienza, abbiamo il traffico e la pubblicità. 349-238-6666 per i vostri SMS. E allora, avvocato Fabrizio Vedana, ci aiuti a capire quanto è grave fermo restando che ogni violazione di legge è grave, l'omissione di cui parlavamo in una parte che considera giustamente il Vaticano extracomunitario e giustamente, non essendo nella lista bianca sul riciclaggio, deve adempiere a ulteriori passaggi normativi. Prego. Certamente grave, mi consente di esordire con una battuta: la città del Vaticano viene equiparata da questo punto di vista a San Marino piuttosto che alla maggior parte, direi tutti i paesi africani, dove c'è una normativa di riciclaggio, ma non è una normativa antiriciclaggio considerata equivalente a quella italiana e a quella degli altri partner europei. Sicuramente una violazione importante che può portare all'arresto sino a 3 anni. Certamente non delle più gravi, non è ad oggi acclarato nessun tipo di reato di riciclaggio sulla base delle informazioni di stampa e sulla base anche di quanto ha riferito il suo collega di Radiocor. Certamente c'erano le avvisaglie di qualcosa che potesse accadere in questo senso proprio in quella circolare citata di Banca d'Italia del settembre di pochi giorni fa, con la quale, similmente a quanto Banca d'Italia ha fatto per le banche sammarinesi, ha detto alle banche italiane: attenzione, i rapporti con lo IOR sono sotto osservazione, state più attente, verificate bene questi rapporti, perché lo IOR è insediato nello stato del Vaticano, che appunto non è paese equivalente ai fini antiriciclaggio. Quindi le avvisaglie c'erano, sì, però di questi giorni hanno confermato. Mi faccia capire una cosa: qui siamo di fronte a un'omessa controllo, per cui insomma adesso io la semplifico molto, insomma, non si sono accorti i goti tedeschi o non hanno prestato abbastanza attenzione al fatto che, essendo Vaticano appunto extracomunitario, che non essendo nella lista bianca dell'antiriciclaggio, bisognava fare passaggi ulteriori, quindi c'è insomma una distrazione, diciamo, oppure la banca italiana forse non si è resa conto la che banca, quindi il credito artigiano, ecco perché quindi la leggerezza sarebbe a questo punto del credito artigiano. Dovrebbe conoscere tutte le carte, diciamo che effettivamente la Banca Vaticana avrebbe dovuto comunicare alla Banca Italiana determinate informazioni che o non gli sono state chieste dalla Banca Italiana o che la Banca Vaticana non ha ritenuto di dare a fronte della richiesta della Banca Italiana. Quindi bisogna capire se non è stato chiesto o se non è stato dato dalla Banca Vaticana in ragione del fatto che non gli è stato chiesto o non ha voluto dare. Sì, insomma, ecco, quello è un po' diverso, perché se io chiedo e tu non mi dai è un conto, se non chiedo e non mi dai è un altro, per cui è un po' diversa la situazione. C'è un conto... Diciamo che probabilmente a monte c'è una segnalazione di un'operazione sospetta, presumibilmente la segnalazione di operazione sospetta non l'ha fatta la Banca Vaticana, ma... Non l'ha fatta la Banca Italiana. Magari anche non la banca di cui stiamo parlando, magari un'altra banca ancora, le cosette banche transitanti, che sono le banche che intervengono in queste operazioni stando in mezzo, sono semplicemente quelle attraverso le quali transitano dei denari da una banca, in questo caso estera, extracomunitaria, ad una banca italiana. Ecco, ma su questo mi sembrava di aver colto una leggera critica da parte sua, cioè cosa vuol dire si tratta lo Stato Vaticano come San Marino o come le Cayman, cioè mi faccio capire, o il Lussemburgo di cui abbiamo spesso parlato? Ma sicuramente non il Lussemburgo come la Svizzera sono considerati paesi con una normativa antiriciclaggio considerata equivalente a quella italiana. Mentre invece San Marino, come la città del Vaticano... Sì, la Svizzera adesso, perché è rimasta per molti anni nella lista grigia, questo facevo riferimento. Dal 2008 anche la Svizzera è considerato paese gestibile ed equivalente ai fini antiriciclaggio, quindi con lo scudo fiscale è evidente che la Svizzera ha avuto un attu che non ha avuto da questo punto di vista San Marino. È difficile fare dei paragoni, però dal punto di vista prettamente tecnico-normativo, la città del Vaticano, come San Marino, come... la stessa Libia, giusto per parlare di un paese d'attualità, sono paesi considerati non equivalenti in termini di contrasto al riciclaggio di denaro, non perché non hanno in assoluto una normativa di contrasto al riciclaggio, ma perché non è considerata altrettanto efficace come quella italiana o come quella belga o come quella di un altro paese comunitario. Ecco, avvocato, per concludere, siccome ce lo chiedono di nuovo gli ascoltatori, mi dice in un minuto scarso che cosa non ha fatto, per farlo capire a tutti, a questo punto il credito artigiano, cioè qual è la contestazione che viene fatta, molto semplicemente, di non avere... Che la contestazione però sia stata fatta... Allo IOR, mi scusi. Qui gli avvisi di garanzia riguardano non esponenti del credito artigiano, ma lo IOR. Probabilmente... Dovevano dire dove andavano questi soldi? Cioè... Dovevano dire per conto di chi stavano facendo quell'operazione. Oh, 23 milioni di euro, questo è... Esattamente, il cosiddetto beneficial owner o titolare effettivo dell'operazione. Lei mi insegna che quando va in una banca, la sua banca dice chi è per conto di chi sta facendo quell'operazione, ma se lavora con un'altra banca non glielo deve dire perché ha già fatto tutte le verifiche antiriciclaggio. Se la banca è straniera, invece quell'informazione, se è extracomunitaria, come il Vaticano, è, e invece l'informazione va data alla banca. Beh, non è proprio un dettaglio. Comunque staremo a vedere. Grazie all'avvocato Fabrizio Vedana anche per la sua chiarezza. Grazie al collega dell'agenzia di stampa Radio Cor, Domenico Lusi. Adesso c'è il GR, poi tutta la ricostruzione di queste giornate. Le giornate più pesanti forse nella storia professionale di Alessandro Profumo, che appunto ha rassegnato le dimissioni. 349-238-6666 per i vostri SMS. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, adesso, come promesso, inizia anche un lungo approfondimento sulla ricostruzione di come si è arrivati alle dimissioni di Alessandro Profumo dalla Prima Banca Italiana. Alcuni scrivono no, è Intesa. Vabbè, sono a seconda della capitalizzazione, Unicredito Intesa se la giocano. Ripeto, il casus finale è stato quello dei libici, ma non è tutta lì la vicenda. Prima di tutto il numero per i vostri sms è 349-238-6666 e subito ci colleghiamo allora con Piazza Cordusio, sede del gruppo Unicredito, dove c'è dal primo pomeriggio la nostra Raffaella Calandra. Raffaella. Sì, Sebastiano, buongiorno. Ecco. Sta per cominciare appunto l'atteso CDA che è fissato per le 18 e alla spicciolata i vari consiglieri stanno arrivando, trincerandosi in un severo no comment alle domande sugli scenari e sulle previsioni future dopo questo CDA. L'ipotesi che in questo momento sta circolando è, come era stato anche già anticipato, di un interim del presidente Rampol, a cui sarebbero date anche le deleghe esplorative per diciamo individuare il possibile successore di Alessandro Profumo, che, come dicevamo anche prima, ha rassegnato le dimissioni con una lettera ai consiglieri del CDA proprio per evitare questo temuto red rationem dell'assemblea di questa sera. Sì, lo scontro dentro l'assemblea. Beh, allora è chiaro che Dieter Rampel è il presidente, non è un mistero che anche la compagine, cioè se vogliamo individuare i tre grandi soggetti dentro gli azionisti di Unicredito, le fondazioni, quindi Biasi per la Cari Verona, ma Palenzona per la Cari Torino, non a caso insomma molto scettiche, Biasi non partecipò all'aumento di capitale nel 2008, ma insomma le tensioni con Palenzona le abbiamo anche raccontate, da una parte. Dall'altra poi quello che riguarda Il ruolo di Cesare Geronzi, su cui molti stanno riflettendo, molti commentatori riflettono in questo momento. Unicredito acquisì Capitalia, poi Geronzi però andò a Mediobanca e da lì anche qualche attrito secondo quanto riportano alcuni giornali oggi, e il ruolo diciamo non favorevole di Cesare Geronzi. E terzo aspetto, il fronte tedesco, perché anche questo ha contribuito non poco, cioè Unicredito ha comprato il Povereinsbank, il presidente del gruppo è un tedesco. È un gruppo in cui Alessandro Profumo si vantava, un gruppo in cui si parlano 18 lingue, non a caso è presente in 22 paesi, moltissimi all'est, tutto l'est, Ungheria, Ucraina, Slovenia, Slovacchia, Serbia, Russia, Romania, Polonia, Lituania, Lettonia, Kazakistan, la Repubblica Ceca, la Croazia, la Bulgaria, sono tutte sedi, tant'è che i ricavi di Unicredito sono solo per il 45%, come ricordavamo in apertura un'ora fa, italiani. Il 22% dei ricavi arriva dalla Germania, il 17% dal resto dell'Europa centro-orientale, il 10% dall'Austria e poi la Polonia, un altro 7% per quello che riguarda i 4.000 filiali e sportelli nell'Europa centro-orientale, 4.000 complessivamente a 9.600 sportelli e 160.000 dipendenti, è l'ottava banca a livello europeo Unicredito, prima stando a il bilancio 2009 prima di Intesa San Paolo. Grazie Raffaella Calandra per quello che riguarda gli ultimi aggiornamenti. Appunto si va verso una delega al presidente Rampel per quello che riguarda la scelta del nuovo Numero uno, volete sapere che voci circolano? Ma insomma, non è un mistero che la parte interna del gruppo vedrebbe di buon occhio Nicastro, ma insomma, mi sembra un po' presto per parlare adesso di chi prenderà il posto di Profumo. Ancora questa mattina non si riusciva a capire se sarebbe arrivato in consiglio di amministrazione dimissionario, come è avvenuto poi, cioè con una lettera di dimissione, oppure se sarebbe andato allo scontro con i consiglieri, appunto chiedendo di votare uno per uno le motivazioni della delega della fiducia. È chiaro che quando gli azionisti non hanno più un rapporto con il manager deve prenderne atto. Sulla distinzione tra quello che deve fare il manager e quello che devono fare gli azionisti si era espresso in queste settimane Profumo, ritenendo che vi fossero troppe pressioni per degli azionisti sul tipo di manager. Aveva anche detto, insomma, qui si vogliono dei manager completamente asserviti, cani da riporto, e invece che manager dipendenti che vanno a massimizzare l'utile, il dividendo e anche il valore del titolo in borsa, oltre che del gruppo nel suo complesso. Colleghiamoci allora con Francoforte, dove c'è Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore dalla Germania. Buonasera Beda. Buonasera. Allora, al di là di quello che poi scopriremo nei prossimi giorni, che cosa è successo, magari parlerà lo stesso Profumo, non lo so, nei rapporti con il presidente Rampl, la vicenda tedesca, guardandola un po' più in prospettiva storica, è una vicenda in cui Unicredito compra una banca importante, Hypo Vereinsbank appunto, in Germania, poi ha acquisito anche la Bank of Austria, e in realtà forse i tedeschi pensavano in questi anni, l'acquisizione del 2005, di poter contare un po' di più nella governance, come si chiama in gergo, cioè nelle decisioni strategiche della banca. Beda. È probabile, sì, è probabile che all'inizio di questa fusione, a metà del decennio, la Germania e i dirigenti tedeschi di Hypo Bank speravano probabilmente di contare un po' di più nel gruppo Unicredito. Sapevano perfettamente che non era una fusione alla pari, sapevano perfettamente che per tutta una serie di motivi, a cominciare dallo stato finanziario di Hypo Vereinsbank, questa era una fusione in cui Unicredito avrebbe preso il controllo della banca tedesca. Però evidentemente nel corso degli anni l'anima tedesca è scemata gradualmente, la stessa acquisizione della Banca di Roma a un certo punto ha spostato ancora di più il bilancio, la bilancia dall'altra parte delle Alpi e quindi l'Italia. Non sappiamo se questo aspetto ha giocato in tutta la partita a cui abbiamo assistito in queste settimane, ma è evidente che insomma Unicredito agli occhi dei tedeschi è oggi un gruppo più europeo e italiano che tedesco, assolutamente. Ecco, non è sfuggito però quello che è successo nel fine settimana, cioè la Süddeutsche Zeitung, che insomma è tornata a criticare Profumo per le critiche che spesso gli venivano rivolte, Mr. Arrogance, cioè un eccesso di, tra virgolette, indipendenza e autonomia nel gestire la banca senza consultare i soci. Questa, insomma, la stampa tedesca su questo sarà mossa negli ultimi giorni, Beda? Sì, io ho trovato personalmente l'articolo della Süddeutsche Zeitung più equilibrato di quanto non sia parso ad altri lettori. Certo, è un articolo in cui si parla degli aspetti negativi, apparentemente negativi, del carattere di Alessandro Profumo, ma si prende anche atto del fatto che Unicredito è cresciuta molto in questi anni, si prende atto del fatto che Alessandro Profumo ha trasformato radicalmente una banca negli ultimi 15 anni e si prende anche atto del fatto che vi sono all'interno della banca parecchie anime e parecchie fazioni. Comunque è evidente che all'interno della banca ci sono molte fazioni. L'articolo della Süddeutsche Zeitung è stato un articolo piuttosto negativo per certi aspetti e ha messo l'accento su un aspetto in particolare, sul fatto che apparentemente Rampl non era stato informato della presenza dei libici all'interno del capitale. Ecco, su quell'aspetto l'articolo ha messo molto l'accento e non mi sorprende, perché se così fosse, se è vero che la presenza dei libici nel capitale era stata tenuta nascosta al presidente in un certo senso, per un motivo o per l'altro, beh, da un punto di vista tedesco è un affronto ed è una slealtà. Quindi non mi sorprende che un giornale tedesco sottolinei quell'aspetto, se è vero. Sì, sì, la parte libica che vedo, su cui vedo si concentrano molto i nostri ascoltatori, è sicuramente, lo ripeto, è stato il casus belli finale, però di scontri, tensioni, frizioni che andavano avanti da mesi, da un anno almeno. Attenzione, quando il presidente della Fondazione Cari Verona, che è il primo azionista sul diritto di voto, e mi riferisco a Biasi, non partecipa all'aumento di capitale, cioè non decide che la Fondazione non metterà i soldi chiesti dal numero uno, dal Profumo, per ricapitalizzare la banca dopo gli scossoni ricevuti con la crisi finanziaria, quello è già un segnale di divergenza fortissima tra l'azionista e il manager. Comunque grazie a Beda Romano in collegamento con noi dalla Germania. Il traffico e poi altre dichiarazioni a partire da quelle anche del sindaco di Verona Fabio Tosi, ma non solo. 349-238-6666 per i vostri sms. Ci sono moltissime opere che senza una quota di capitale pubblico non sono fattibili. Pensate al nuovo traforo del Brennero. Non è il problema se il capitale pubblico è buono o cattivo, se il capitale privato è buono o cattivo. Qua ci sono alcune cose che senza le cosiddette partnership pubblico-privato non si faranno mai. Capitale pubblico in alcuni casi è assolutamente necessario, purtroppo non è sufficiente e non sarà mai sufficiente a fare tutto quello di cui abbiamo bisogno. Il capitale privato è disponibile ad accompagnare queste opere. Oggi il grande problema che tutti noi abbiamo è quello della velocità dei processi decisionali per consentire di sviluppare questi progetti. Credo che sia tutto lì il problema. Beh, se questo è il problema che Alessandro Profumo evidenziava nel paese, la velocità dei processi decisionali, devo dire che non è un problema che appartiene al gruppo Unicredit. Come Profumo sa ormai sulla sua pelle, nel senso che da quando Radio 24 ha anticipato per prima il fatto che ci fosse ormai un consensus per chiedere le dimissioni a Alessandro Profumo, mi riferisco alla domenica sera, sono passate 48 ore, la lettera è arrivata, Profumo si è dimesso, anzi l'accelerazione è stata in questo caso totale. Avremo modo, lo dico chi scrive, di discutere nelle prossime puntate quanto l'azionista può ingerire su un manager che ha un piano, cosa debba fare l'azionista e cosa debba fare il manager. In questo paese spesso l'azionista vuole mettere becco anche dove opera il manager. Questo è un problema anche e soprattutto per le piccole e medie imprese del paese: o fai l'azionista o fai il manager. E anche il ruolo della politica, perché sono d'accordo con chi scrive che tutto vogliamo in questo paese tranne che si ritorni alle banche guidate politicamente, come diciamo nei periodi non indimenticabili della Prima Repubblica. La politica deve stare fuori dal mondo bancario e casomai occuparsi del sistema bancario, delle regole, dei controlli, delle leggi, ma non di dove una banca mette gli impieghi. Poi questo lo decideranno gli azionisti, i clienti, il giro d'affari, insomma, non certo i sindaci, i presidenti delle regioni, per quanto esprimono anche dei consiglieri. Insomma, nessuno rimpiange, nessuno che ricordi quel periodo rimpiange onestamente la presenza dei politici nelle banche, che poi porta insomma qualche caso, mi sembra che anche tuttora, no? Sia sotto gli occhi della magistratura della Banca d'Italia, Credito Fiorentino, Verdini, dice qualcosa? È iniziato in questo momento nel frattempo il consiglio di amministrazione di Unicredito, in questo istante non c'è Alessandro Profumo, ecco perché è entrato in Unicredito alle 15 e ne è uscito poco dopo, non siede lì, prenderanno atto delle dimissioni. L'accordo, ripeto, sui soldi è inutile parlarne adesso, lo si saprà quando iniziano a uscire le prime discrezioni. Vorrei però farvi ascoltare cosa ha detto a proposito di politica e banche questa mattina, quando ormai si dava per certa solo la tempistica e le modalità delle dimissioni era in discussione, ma l'uscita di Profumo era certa. Dicevo, il sindaco di Verona Flavio Tosi nel programma di Oscar Giannino questa mattina a Radio 24. Sicuramente questo tipo di battaglia è consona, diciamo, a quelle che sono le posizioni della Lega, cioè battaglia a favore del territorio, e quindi per mantenere in questo caso una grandissima banca nazionale legata al territorio. Credo che a questo si sia aggiunto il malumore di tanti soci occidentali, in particolare tedeschi, che hanno visto qualcuno entrare. Insomma, se tu hai una banca nella quale sei socio, nella quale hai un certo tipo di responsabilità, e ti trovi dalla sera alla mattina che qualcuno in casa e nessuno ti ha avvisato e qualcuno lo sapeva, è come se tu avessi il custode di casa tua che ti fa entrare uno senza avvisarti, insomma, ecco, più o meno quello che è successo in Unicredit. E in questa critica del sindaco di Verona Flavio Tosi c'è parte di quello che è successo negli ultimi giorni, anche se, ripeto, su questo non bastano gli ultimi giorni. Perché? Perché dice: non siamo stati avvisati. Il nostro Simone Spezia ha preparato una scheda che ricorda, al di là degli ultimi giorni, qual è stata la carriera di Alessandro Profumo, soprattutto come si è intrecciata con il gruppo Unicredit. Il cognome, il tratto un po' supponente, gli erano valsi il soprannome Arrogance, le capacità, quello di Alessandro il Grande. Cattivo carattere o no, le mosse di Alessandro Profumo hanno tramutato Unicredit in una banca di dimensione veramente europea, tra i primi 10 istituti di credito del vecchio continente, tra i primi 5 nell'area della moneta unica. Ultimo di 5 figli, è nato nel 57 a Genova ed esce di scena, almeno momentaneamente, quando mancano ancora 7 anni all'obiettivo che si era prefissato. È tra i firmatari del manifesto promosso da Luca Iosi e sottoscritto, tra gli altri, da Giovanni Floris, Marco Follini, Gianni Cuperlo, nel quale ci si impegna a lasciare il potere entro i 60 anni. «Potrei andar via anche prima», aveva dichiarato un anno e mezzo fa. La profezia si è avverata. Ha vissuto a Palermo e poi a Milano, dove si è laureato alla Bocconi, studiando mentre faceva la gavetta al Banco Lariano. Poi nella società di consulenza McKinsey, la stessa da cui proviene Corrado Passera. Passera raggiungerà Profumo nel mondo bancario solo nel 2002, dopo aver risanato le Poste. Profumo ci è di fatto nato e ci ritorna molto presto, passando per RAS e arrivando nel 95 alla carica di direttore generale dell'allora Credito Italiano. Vi fu chiamato da uno dei grandi protagonisti del sistema bancario, Lucio Rondelli, scomparso poco più di un anno fa e rimasto presidente dello stesso Credit fino al 2001. Sotto la sua egida, e grazie naturalmente alle sue capacità, Profumo approda la carica di amministratore delegato nel 97, 13 anni fa. Piace ad analisti e investitori perché, all'epoca è tra i pochi, parla di concorrenza, clienti, valore per gli azionisti e quindi di dimensione, troppo piccoli gli istituti italiani, pensa. L'opera di fusione ed espansione inizia dunque subito. È sotto la sua guida e ad un anno dal suo insediamento che si fondono 7 banche e nasce Unicredit. Gli anni successivi sono dedicati a questa integrazione, alla riorganizzazione, con qualche acquisizione nell'est Europa, ma il grosso arriva nella seconda metà del decennio che si sta concludendo. È nel 2005 che Unicredit acquisisce la tedesca Hypo Vereinsbank per la maggiore fusione transnazionale europea. 28 milioni di clienti, 7.000 sportelli in 19 paesi, 733 miliardi di attivo. Poi nel 2007 l'unione con Capitalia, ex Banca di Roma. Tra i soci di Capitalia anche la Libyan Arab Foreign Bank, il cui rappresentante sedeva nel CDA. Tedeschi e libici che hanno avuto un peso determinante nelle vicende di queste ore. Your history now, come dicono in inglese, questa è la storia, ormai Profumo è fuori dal gruppo Unicredit. Ripeto, avremo modo domani, nelle prossime puntate, di parlare del rapporto che va sotto nome di governance tra gli azionisti, compresa la politica, e il manager, che dovrebbe essere, secondo tradizione anglosassone, lasciato libero di valorizzare le azioni delle banche, non avere troppe interferenze o essere cane da riporto. Comunque, Giuseppe Cruciani, la politica nelle banche ti eccita? A noi personalmente no, però. A me nemmeno, assolutamente no, non so nemmeno di cosa si stia parlando, no, sto scherzando naturalmente, però abbiamo un protagonista un po' politico, un po' economico questa sera. Cercheremo di capire cosa vuole fare nella vita Massimo Calearo, esponente ex Partito Democratico, adesso nell'API di Rutelli, che potrebbe votare la fiducia a Berlusconi, addirittura si è detto disponibile per diventare il nuovo ministro dello sviluppo economico, quando ci sarà. Vedremo, è uno dei protagonisti di questa sera alla Zanzara. Beh, ti posso consigliare anche di chiedere se ci riuscirai, che cosa vuol fare nella vita a questo punto Alessandro Profumo, perché anche lui dovrà trovarsi un'occupazione. Qualcuno lo propone, ho letto su Facebook, leader della sinistra. Sì, abbiamo visto anche noi alcuni messaggi. È veramente tutto per questa puntata. Resta il nostro sondaggio, ne approfitto, sul chi volete come ministro dello sviluppo economico. Da Sebastiano Barisoni lo auguro di una buona serata e noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.